Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Andremo avanti fino alle ore 21.30, ma andiamo subito con la sigla iniziale di questo... Bene, questa era la sigla iniziale di questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21.30, anche oggi ultimo giovedì per questo luglio 2025. Ricordo che la trasmissione viene curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Che altro dire se non che ora ci ascoltiamo questa band che ha fatto uscire un album nel 2013, formata più o meno da persone che gravitano più o meno in centro Italia, comunque nord Italia, scusate, non proprio centro, zona Bologna, diciamo nell'asse Bologna, Firenze, Milano. Loro sono i Complot. Alla voce, vabbè, c'è l'unica persona così che io personalmente so chi è, che è tra i fondatori della Agipunk, etichetta del campo del punk hardcore, crust, insomma nazionale, ma anche ormai a livello internazionale. Loro i Complot, come ho detto, 2013, l'album che si chiama Sei vivo, sei morto, a nessuno importa. E come dicevo, così facciamo finta di nulla, insomma ho detto che siamo in diretta, quindi tutto può accadere, e ora andiamo all'ascolto di questa band, i Complot. Eccoci qua, buonasera a tutti e tutte, anche da questa parte del vetro, solo per annunciarvi, spiegarvi di cosa vorremmo cercare di parlare stasera. Come scritto nel promo, nella frase così diffusa su stasera, che è il 31 luglio, il neocittadino, uno stile di vita, non più un individuo unico. Come capitalisti e Stato hanno espropriato gli sfruttati nei contesti lavorativi così come nei contesti di vita. Allora, sembra uno slogan, noi stasera faremo un viaggio, un percorso, dai, un percorso dal diciamo dall'oggi, dallo scenario di oggi, e partiremo con come possiamo definirlo, un articolo di giornalismo fiammeggiante. Poi andremo a ritroso, attraverso un'analisi fatta molti anni fa da Alfredo Maria Bonanno. Poi concluderemo con una ricerca sul campo fatta da, cioè che si è così concretizzata in un libro, in un saggio, in un volume che si chiama Frontiere del lavoro, esternalizzare la frontiera reclutando lavoro agricolo tra Stati Uniti, Messico e Centro America. Ecco, questo qui è il menù di stasera. Esperienza, Treccani alla mano, e conoscenza diretta e personalmente acquisita con l'osservazione, l'uso o la pratica di una determinata sfera della realtà. Conoscenza dunque che mette in campo i sensi e anche i soldi, il volume d'affari di quella che chiamiamo appunto Experience Economy. Secondo un rapporto di Alta Gamma, una fondazione che raccoglie alcuni grandi brand di settore, il mercato globale del lusso quest'anno chiude con un fatturato di quasi 1.480 miliardi di euro, in calo del 2% rispetto all'anno precedente. Cala la quota dei beni di lusso personali, ma in questo spicchio cresce del 5% il cosiddetto lusso esperienziale. Non si paga per avere cose, ma per fare cose. Non si acquista per essere proprietari, ma per essere coinvolti, per esempio, in vacanze esperienziali, per essere invitati a mostre immersive, per partecipare a mini tour tra Autry e vigneti. E poi, ancora, per essere coinvolti ad Amsterdam, alla Heineken Experience o alla Experience di Van Gogh in qualsiasi altra città che non sia Amsterdam. Quei girasoli e le stelle riprodotte magari come ologrammi, sicché la storia dell'umanità non si riassume più in carrellate di oggetti come nel romanzo balzacchiano La pelle di Zigrino, dove un giovane scopre nel talismano d'antiquariato un oggetto, appunto, la magica risorsa per soddisfare i suoi desideri. La storia dell'umanità volta pagina verso beni materiali e altre forme di magia. Gli oggetti oggi non fanno più status, almeno su larga scala, e non riassumono più in se stessi il senso di identità, che si dilata invece nell'esperienza. Eppure, Balzac a parte, non è stato sempre così. Se pensiamo al XX secolo, scriveva nel 2013 l'esperto di tendenze James Wallman, autore del libro Stuffocation, Living More with Less, il grande sistema di valori era il materialismo, ovvero la convinzione che se avessimo avuto di più saremmo stati più felici. Ma ecco che il grande cambiamento, proseguiva Wallman, è in quello che io chiamo esperienzialismo, ovvero la ricerca della felicità e dello status nella vita vissuta. Questa cosa che ho letto, che continua ancora per un bel pezzo, si chiamava, cioè si intitolava paga per fare, non per avere, come è cambiato il valore dell'esperienza nella società del consumo digitale. Non mi ricordo se l'ho letto il titolo, paga per fare, non per avere, come è cambiato il valore dell'esperienza nella società del consumo digitale. L'autrice è una certa, lo diciamo perché è responsabile di quello che ha scritto, Ginevra Leganza, e il, come si chiama, il medium di massa si chiama Civiltà delle macchine, numero 4 del 2024. Mi perdo in questi dettagli per dire che esiste questa rivista edita dalla Fondazione Leonardo, che ospita, diciamo che ospita questo genere di interventi effimeri, come possiamo definirli, non so, oltre che mistificanti, ma anche a cui appunto danno manforte questi personaggi del sottobosco giornalistico di una certa tendenza maggioritaria, ma lasciamo perdere. Ci serve per andare invece a ritroso, come dicevo prima, a capire chi è questo personaggio che si trova a consumare delle esperienze anziché a possedere delle merci, sì, in carne e ossa, chiamiamole così. E lo faremo, come dicevo prima, andando così, prendendo spunto da una conferenza di Alfredo Bonanno, che risale addirittura al 98, al 1998, dove lui si chiamava Esclusi e Inclusi, dominio nella società post-industriale, e appunto si trova insomma edita la sbobinatura di quella serata, e dà secondo me delle, come si dice, delle prospettive, chiamiamole così, o meglio delle suggestioni, delle impulsi a cercare di andare a fondo in questa critica che si vuol fare al presente. E di solito la critica, cioè di solito, 95% delle volte la critica del presente viene ancora fatta con armamentari che si riferiscono a una società di un certo tipo, che era quella appunto divisa in classi, e le classi venivano determinate dall'appartenenza come di questi soggetti a una classe o all'altra. Le cose sono diverse già da un bel pezzo. Cerchiamo fra un po', senza cercando di non annoiare troppo, insomma, l'ascolto di questa puntata, cerchiamo di capire che cambiamenti sono successi. Eccoci qua di nuovo. Dicevo che cercheremo adesso di andare al centro, diciamo, del nucleo del nocciolo del nocciolo al nocciolo della questione. Allora, questi qua ci dicono che cresce, diciamo, cresce la domanda di questo lusso. Loro definiscono lusso esperienziale, perché chiaramente loro si rivolgono alle classi abbienti. Intendiamoci, prima non intendevo dire che non esistono i ricchi e non esistono più i poveri, intendevo dire che nelle coscienze delle persone la cosa non è così chiara, anzi per niente, è molto confusa. È successo qualcosa, hanno lavorato quelli che hanno il dominio, diciamo, in mano, perché sono persone in mano, carne e ossa, hanno lavorato man mano negli anni perché appunto le cose fossero estremamente confuse, non solo le cose, cioè non è che la gente ha le idee confuse, è la realtà proprio che è incasinata. Loro a un certo punto hanno detto: dobbiamo cambiare l'uomo, perché se non è vero che la macchina può sostituire l'uomo, come è vero che la macchina non può sostituire l'uomo perché è, diciamo, un'altra genesi, è diversa da quella dell'essere umano, in quanto l'uomo è insostituibile, no? Ogni persona, ogni essere umano è sempre unico, no? L'uomo però può avvicinarsi di più alla macchina, hanno detto questi soloni dell'economia. L'uomo può avvicinarsi alla macchina. Allora, queste persone che parlano così, noi li definiamo inclusi nel processo, diciamo, processo sociale, inclusi. Gli esclusi chi sono? Sono un'altra categoria, ci serve per comprendere, diciamo, questo stato di cose. Punto. Non è detto che, appunto, dico, leggo da citazione, non è detto che l'escluso sia necessariamente il disoccupato o il precario o chi non ha lavoro. Questi certamente sono esclusi, ma può anche essere considerato escluso, secondo me, e quindi entrare a far parte di quella zona poco chiara o comunque triste della vita, anche chi ha un lavoro, anche chi riesce ad adattarsi a questa precarietà, a questa flessibilità, alla capacità di sostituirsi a se stesso, di crearsi tempi via via diversi, di non avere quell'amore per le cose che si fanno, per le cose fatte bene. I capitalisti e con loro gli economisti negli ultimi 20 anni, cioè dal 78 al 98, intendeva lui, hanno costruito un muro che tende a separare gli esclusi dalla dimensione del possesso di qualcosa che essi non hanno e che invece gli inclusi posseggono, ad esempio la conoscenza o la cultura, le informazioni o la gestione delle informazioni, o meglio ancora gli oggetti di consumo. Ma possedere significa desiderare, non si desidera quello che non si capisce, e se non si desidera non si possiede, o se si possiede senza desiderare è come se non si possedesse. Se osserviamo l'attuale processo di svuotamento culturale, vediamo che una parte consistente della popolazione che io identifico nel concetto di esclusi viene sottratta sempre più alla capacità di capire, per cui in questo modo le si sottrae la capacità di desiderare. E per chi non desidera più, non ci sarà più ribellione. Allora, siamo partiti dalle conclusioni della serata qui, che vi ho detto, insomma, che si intitolava Dominio nella società post-industriale, esclusi e inclusi. Appunto, società post-industriale, si parlava ancora in questi termini, no? Passati un bel po' di anni, ecco, 25 quasi anni fa, no, più, cosa dico, 27 anni, quasi 30, diciamo, più vicini 30, post-industriali, nel senso che la società industriale, si parla dell'Italia, contesto italiano, era ancora qualcosa di, diciamo, vivo nei discorsi, dai, delle persone. Com'è possibile che sia sparita questa società industriale che aveva portato, insieme a una lunga serie di malanni, anche tutta una serie di emancipazione dalla dipendenza, insomma, dalla sottomissione ai padroni precedenti, no? Cosa è successo dal 45 alla fine della seconda guerra mondiale agli anni 60? Ci hanno sempre ripetuto, c'è stato il boom economico in Italia, c'è stata l'industrializzazione, l'immigrazione di massa, l'abbandono delle campagne, diciamo, l'urbanizzazione nelle metropoli del nord-ovest, e un po' più avanti, anche un bel po' di anni dopo, anche nel nord-est, è partita un altro tipo anche di una, ancora un altro tipo di svolta, diciamo, industriale, ma comunque economica. Comunque torniamo agli anni 60, poi appunto sono maturate, grazie al fatto che appunto la classe degli sfruttati aveva una certa, non dico unione, ma una certa consapevolezza, oltre che ciascuno aveva consapevolezza di sé, di essere sfruttato, c'era anche un sentire, diciamo, collettivo, quindi non ci si sentiva individualizzati di fronte allo sfruttamento, si sapeva che c'era, diciamo, una dimensione collettiva, no? E allora hanno iniziato a fare, cioè non hanno mai smesso, ma comunque hanno ripreso a fare delle rivendicazioni economiche. Con l'autunno caldo queste rivendicazioni appunto salariali dei lavoratori che erano operai dell'industria, in maggior parte, le parti più avanzate della classe, hanno cominciato a mettere in questione anche, oltre che la dimensione, il contesto economico delle loro rivendicazioni, il motivo del dominio, ecco, il fatto che c'era il dominio. Hanno incominciato a dire: ma perché deve esserci lo sfruttamento? Non vogliamo lavorare di meno e essere pagati di più semplicemente, eh? O anzi, semplicemente vogliamo degli aumenti. Poi hanno cominciato a dire: qua si lavora troppo. Poi appunto hanno cominciato a puntare il dito, a dire: no, il lavoro uccide, noi non vogliamo più lavorare così, no, vogliamo avere più tempo per noi, eccetera eccetera. Questa diciamo processo si ferma, cioè sparisce a un certo punto come un fiume carsico, sparisce, non si capisce, cioè non è tanto facile spiegare. Intorno alla fine degli anni 70 arriva a un culmine, diciamo, e poi piano piano sparisce e cambia di fatto il ciclo produttivo, il paradigma produttivo. Facciamo ancora qualche secondo di pausa e poi si manderà quel inserto, diciamo, da una trasmissione TV. Ecco, tengo in sottofondo questa band, così presento insomma quello che abbiamo ascoltato in precedenza, anche per non fare accumuli di brani sconosciuti. E in precedenza abbiamo ascoltato i Death Side, che è una band giapponese di Tokyo, che si è formata negli anni, a fine anni 80, e comunque da un loro album datato 1996 abbiamo ascoltato alcuni brani. E ora invece stiamo ascoltando gli sloveni, Aktivna Propaganda, esattamente da Lubiana. Сына, и сесе продат, приели свой игрок, кинай субъект. Il 22 gennaio 1983 il progetto di Ezio Tarantelli di revisione della Scala Mobile trova un primo approdo nel cosiddetto Lodo Scotti. L'accordo impegna governo, sindacati e imprese a contenere gli aumenti dei prezzi al 13% per il 1983 e sotto il 10% per il 1984, riducendo di conseguenza la copertura della Scala Mobile. Sembra un primo passo verso l'auspicata concertazione, ma non sarà così. Poco più di un anno dopo, l'esecutivo guidato dal socialista Bettino Craxi propone una nuova intesa tra governo, sindacati e imprese, allo scopo di predefinire gli scatti della Scala Mobile nell'ambito di una strategia complessiva per ridurre l'inflazione. Ma stavolta la CGIL, e in particolare la sua componente legata al PCI, fa muro e respinge ciò che ritiene un attacco al potere d'acquisto dei lavoratori. Di fronte allo stallo negoziale, il 14 febbraio 1984, il governo Craxi, contro la tradizione di non intervento nelle dinamiche sindacali, firma un accordo separato con CISL e UIL, includendo il contenuto in un provvedimento legislativo. Il Consiglio dei Ministri ha scelto la strada del decreto legge per ridurre la Scala Mobile, bloccare prezzi, tariffe. È il decreto di San Valentino che impone ai lavoratori la rinuncia a 3 scatti di Scala Mobile dai 12 complessivi, offrendo in cambio agevolazioni fiscali e misure per l'occupazione. La CGIL non ci sta e risponde proclamando lo sciopero generale e la promozione di un referendum abrogativo. È un momento di rottura drammatica. L'effetto immediato dell'accordo è la spaccatura del sindacato e della stessa CGIL, divisa tra la rappresentanza socialista, favorevole al decreto, e quella comunista, che appoggia il referendum. Di fronte a 700.000 lavoratori riuniti in piazza San Giovanni, il segretario della CGIL, Luciano Lama, chiede al Parlamento di ripristinare il potere contrattuale del sindacato, riconoscendone l'autonomia di negoziazione. Nemmeno Ezio Tarantelli può essere soddisfatto dell'accordo. In un'intervista sostiene che può essere considerato il padre della proposta della predeterminazione della Scala Mobile, ma non del decreto del 14 febbraio. Un decreto che vale come vittoria tecnica, ma sul piano politico resta una sconfitta. Qualche giorno dopo, in un articolo per La Repubblica, Tarantelli scrive: occorre ricordare ai compagni che stentano a cambiare pelle che di economia non si vive, ma di economia si può alla lunga morire. Professor Giognoli, c'è un personaggio che... Evitare il referendum e riportare al tavolo della concertazione la CGIL è l'obiettivo che Ezio Tarantelli e altri riformisti perseguono fino all'ultimo. Intenzione che si esprime in un appello sottoscritto da diversi intellettuali che invita il sindacato a ricomporre la frattura determinata dall'accordo di San Valentino. Ma se così non sarà, i firmatari dell'appello dichiarano che voteranno contro l'abrogazione del decreto. Ezio Tarantelli si impegna a fondo per la ripresa del dialogo. Una corsa contro il tempo che lo vede protagonista e nello stesso tempo lo espone come obiettivo del terrorismo che quel dialogo vuole impedirlo ad ogni costo. Il 27 marzo 1985, intorno a mezzogiorno, il professor Tarantelli lascia l'aula 3 della Facoltà di Economia e Commercio. Ha appena concluso la sua lezione, l'ultima. Dopo essersi messo al volante della sua auto nel parcheggio dell'università, qualcuno lo chiama. Poi la raffica. 12 colpi sparati con una mitraglietta Scorpion lo riducono in fin di vita. Muore poco dopo, mentre lo trasportano in ospedale. Sul cofano della vettura, gli assassini lasciano un documento. È la risoluzione numero 20, firmata Brigate Rosse, partito comunista combattente, che poco dopo rivendica l'attentato contro uno dei principali responsabili dell'attacco al salario operaio, oltre che intellettuale, al servizio del grande capitale. L'omicidio del professor Tarantelli, che lascia la moglie e un figlio di 13 anni, scuote e commuove il paese. E accende i riflettori sul referendum che sta per svolgersi. 9 e il 10 giugno del 1985 l'Italia va alle urne per cancellare o confermare il decreto varato il 14 febbraio 1984. Prevarranno i no all'abrogazione con il 54,3%. La morte di Ezio Tarantelli e la sconfitta del referendum segnano un punto di svolta nella storia repubblicana e acuiscono la crisi del PC guidato da Alessandro Natta. D'altra parte, le misure introdotte con il decreto di San Valentino, confermate dal successo referendario, contribuiranno ad abbattere l'inflazione, che dal 14% del 1983 scende nel 1987 al 4,8%. Eccoci qua. Allora, prima di ritornare a Bonanno, faccio io una piccola parafrasi di quello che abbiamo ascoltato, che era una di quelle ignobili puntate di quel programma che si chiama Passato e Presente di lui, no? Paolo Mieli, ex Bondai, lasciamo perdere. E, chi è? Lo sapete bene. E, allora, abbiamo fatto un salto. Era una puntata di pochi mesi fa, fine marzo 2025, che era il 40esimo, insomma, dell'uccisione di questo Tarantelli. E non è semplice, no? Quando parlano i professori così e fanno frasi lunghe e si perde un po' il filo, mettono davanti, insomma, cambiano l'ordine delle logico, delle normale, diciamo, delle che c'è nella conversazione, quindi uno deve aspettare, attendere il fine della frase per capire cosa si sta parlando. È così, insomma, praticamente loro ricostruiscono il primo, diciamo, la prima partiamo dall'inizio, che è il 45, no? 45, l'Italia sconfitta dalla seconda guerra mondiale, inflazione quasi a tre cifre, no? Cioè quasi altissima, inevitabilmente. E Einaudi, Luigi Einaudi, è liberale, concepisce questa misura, che era una misura keynesiana, diciamo, di contenimento di questa inflazione. Inflazione è quando i soldi perdono di valore e di conseguenza le merci aumentano di prezzo. Quindi a un certo punto questa inflazione si stabilizza, si mettono d'accordo Einaudi, Luigi Einaudi, del ministro dell'economia, e Di Vittorio, il leader, diciamo, del sindacato, e va bene, e passano su, diciamo, scoppia il boom economico negli anni 50, poi vengono gli anni 60 e comincia a scoppiare lo scontro sociale dopo il 69, no? A quel punto lì, per contenere un po' le scalmane, loro decidono appunto di estendere questa scala mobile, che la chiamano, questa misura, diciamo, di contenimento dell'inflazione, a qualsiasi, indipendentemente, cioè su scala, ecco, territoriale nazionale, diciamo statale, ecco, dato che siamo qui a parlare una radio insomma che è friulanista, nata come friulanista, ma comunque torniamo a noi, si estendono, ecco, queste misure. Quindi praticamente ogni mese in busta paga, a seconda di come va l'indice dei prezzi, si ha automaticamente adeguato il salario. Ecco, non ci sono cioè le bollette non aumentano, ma aumenta anche il salario. I prezzi aumentano, aumenta anche il salario. Non bisogna aspettare il rinnovo contrattuale, se c'è, o altre questioni, o altri adeguamenti dall'alto, ecco, automaticamente, perché la gente aveva fatto un casino impressionante, era scesa in strada, si era scontrata, c'era gente in prigione, L'esito era questo. Loro a un certo punto però, scusate, torniamo al filmato che se no mi perdo. Il primo, se arriviamo appunto a un certo punto, valutano che questa roba qua a loro non è una cosa un po' poco maneggiabile per loro, e la soluzione appunto è tagliare sti punti della scala mobile. Il primo passo è appunto che tagliano tre scatti con lodo Scotti o col decreto di San Valentino, adesso non mi ricordo cosa voleva dire, su tutto l'anno solo i primi due trimestri andava avanti la scala mobile e poi si fermava, e tu, cioè da giugno in poi, ti arrangiavi con quello, col salario che avevi, e i prezzi andavano dove volevano. Ecco, a un certo punto sì, si impuntano i togliattiani, diciamo, questi qua, Lama, questi personaggi qua, dicono no, bisogna conservarla, per la pace sociale bisogna tenere lì il scala mobile, e si mettono in piedi questo referendum. E quei personaggi come questo Tarantelli e altri, Pier Carniti della CISL, altri, no? Dicono no, non arriviamo al referendum, mettiamoci d'accordo, però se arriviamo a referendum noi votiamo no, cioè vi avvisiamo, vi buttiamo giù, cioè questa roba qua deve finire, questa roba della scala mobile. Ecco, questa era la traduzione dall'ideologico all'italiano, ecco, di quello che abbiamo ascoltato. Noi adesso torniamo a Buonanno, speriamo di concludere, e leggo direttamente dalla conferenza perché è molto chiaro. Il capitale in quel momento cosa cercava? Aveva di fronte a sé la rigidità degli impianti, la rigidità del costo del lavoro, non poteva trovare mercati differenti ai propri prodotti, aveva la lotta sindacale, per quanto modesta, che lo ostacolava, aveva il cosiddetto terrorismo che premeva alle porte e che veniva battezzato con ridicola parola proprio per far paura alla gente, quindi sollecitare provvedimenti repressivi anche sgradevoli. Aveva tutta la stagione precedente, che almeno dai 10 anni premeva con i suoi fantasmi, la stagione delle bombe a partire da Piazza Fontana. Questa stagione cosa significava? Non dimentichiamo che il 12 dicembre 69 la bomba fu messa esattamente il giorno precedente a quello in cui i chimici firmarono il contratto che spaccava il fronte del cosiddetto autunno caldo, l'unione fortissima coi metalmeccanici. Il contratto dei chimici fu firmato, allora io lavoravo nel settore chimico, il 13 dicembre del 69. Quindi, mentre il capitale si trovava in una simile situazione precaria e difficile, che però si parla del fine 70, di nuovo, Modigliani e Tarantelli, il primo premio Nobel, il secondo ucciso dalle Brigate Rosse, svilupparono un teorema in base al quale veniva dimostrato possibile per il capitale ridurre l'eccessiva rigidità del costo del lavoro facendo ricorso ai licenziamenti. La formula era vecchia e nuova nello stesso tempo. Razionalizzare meglio la produzione con le macchine, fare lavorare di più gli operai, contare i tempi meglio, applicare il taylorismo e il fordismo meglio, licenziare i meno produttivi. Non dovete aver paura a licenziare la gente, dicono Modigliani e Tarantelli, perché basta assicurare al paese un governo più stabile, che possa promettere un freno al pericolo inflazionistico, e la gente ha minore paura di un futuro incerto e sente meno il bisogno di un lavoro fisso. Questo teorema, come vedete, ha di economico ben poco. In fondo, cosa sono questi teoremi? Anche quando vengono spacciati con tante formule matematiche, essi significano ben poco, qualche cosa di più di banali considerazioni psicologiche, psicologia di massa, con tutte le conseguenze del caso. Tornando al teorema di cui sopra, esso si rivelò fondato. Cominciarono i licenziamenti, vi ricordate, per chi lo può ricordare, la famosa marcia dei 40.000 della Fiat a Torino? Non una marcia di lavoratori, ma solo di quadri intermedi, che rivendicavano la possibilità per la Fiat di operare i cosiddetti prepensionamenti e l'applicazione della flessibilità della mobilità. Nel frattempo, sì, cioè ritorna qua perché ha fatto un inciso, Cosa è cambiato? Prima di tutto, grazie all'inserimento della robottistica, la chiama lui, io direi robotica, all'interno della catena di montaggio, si è modificata la possibilità produttiva ed è cresciuta la flessibilità della produzione stessa. Ad esempio, se andate in un qualunque concessionario della Fiat e ordinate un'automobile di un certo valore con certi gadget precisi, il venditore la programma direttamente. L'automobile non esiste nel deposito, è ancora di là da venire, ancora non esiste, viene programmata direttamente con un contatto diretto in tempo reale con la linea di montaggio che la realizzerà. Altro esempio, l'IBM nell'82-83 aveva centrato la produzione e la revisione di tutti i computer a Bordeaux. Si trattava di apparecchi abbastanza consistenti, che forse è improprio chiamare computer, macchine rudimentali visti con l'ottica di oggi. Le testine, oggi ho 98, le testine necessarie per l'utilizzo di queste macchine elettroniche erano depositate in Svezia in una sorta di magazzino centrale da cui venivano distribuite in tutto il mondo. Nel caso in cui ad esempio a Bologna ci fosse stato, perché era a Bologna questa conferenza, ci fosse stato bisogno di una testina, ne esistevano migliaia, lo stesso per tutte le migliaia di componenti eccetera eccetera, ci si doveva rivolgere alla sede della IBM di Bologna, dove c'era un deposito, un magazzino con alcuni computer e relative testine, oltre a diverse centinaia di ricambi, lo stesso in tutto il mondo, in cui venivano impiegate le macchine IBM. Qualche anno dopo questa situazione era radicalmente cambiata. Cosa era accaduto? Una vera e propria rivoluzione in campo organizzativo. Di fatto vennero aboliti i magazzini e i depositi. Le testine, per restare nell'esempio, vennero diffuse in tutto il mondo senza alcun criterio preciso, senza tener conto di indici di consumo o altro. Non aveva più importanza se una certa testina si trovava a Milano o a Melbourne, in Australia. Attraverso il collegamento telematico era possibile, quando si richiedeva una testina precisa con una data sigla, individuare immediatamente la collocazione, cioè il luogo dove quella testina si trovava. A quel punto partiva l'ordine, l'indomani l'oggetto per corriere speciale arrivava da Melbourne. Un occhio estraneo all'economia potrebbe pensare al costo del trasporto e a una possibile convenienza della situazione precedente, nella quale la testina si trovava presso il magazzino di Bologna e veniva consegnata al cliente. Invece no. Questa è stata una grandissima ristrutturazione per il capitale, perché abolire i costi di magazzinaggio, di stoccaggio, di fermo magazzino, di gestione del magazzino, ha abbattuto del 20% il costo distributivo della produzione. Concludendo, questi processi di ristrutturazione, programmazione, abolizione delle infrastrutture rigide, abolizione degli stoccaggi, riduzione delle rigidità del costo del lavoro hanno chiaramente aperto una nuova strada per il capitalismo, per il capitale, e la chiave di volta di questo nuovo indirizzo è stata la telematica. Allora, chiudiamo questo discorso qua e poi rimane ancora un po' per parlare dell'altro libro. No, abbiamo scelto questo punto di svolta qua della scala mobile appunto perché era, sembra appunto lì come lo raccontavano tra l'altro in TV, sembra che sono andati in massa a votare per il taglio, cioè per darsi la zappa sui piedi, per togliere le persone, no? Il punto era che si stava trasformando anche il... Adesso, insomma... faccio un riassunto di quello che dice Bonanno, si stava trasformando anche il a parte il ciclo produttivo, appunto queste catene di montaggio che erano diventate più flessibili e tutto, ma anche il tipo di lavoro e soprattutto il tipo di lavoratore che si andava a cercare, ma anche che era richiesto, era diverso, non era più un lavoratore con delle competenze che si formava. Se era un operaio sul banco, se era un impiegato dietro lo sportello, adesso al di là delle attività, si formava, cioè lui aveva una formazione scolastica, diciamo medio media, ecco, non medio bassa, media, nel senso che anche se aveva la scuola dell'obbligo, quella scuola lì gli dava quello che gli serviva. per poi andare avanti e, sul lavoro e costruirsi con la, sputando pallini, una certa competenza nel fare qualcosa, ecco, fino alla fine degli anni 70 e al passaggio con gli anni 80, quando appunto comincia questa rivoluzione, chiamiamola, c'è anche, cioè, equivoca il termine, equivoco, rivoluzione neoliberista, appunto, con tutti questi capi di governo, Craxi, Thatcher, Mitterrand, Reagan, sono tutti passati a miglior vita, e, che hanno dato questa, diciamo, svolta di praticamente mettere a fuoco quello che volevano dai lavoratori, che era questo: non avere delle competenze, smantellare le competenze, disporre il lavoratore a continui cambiamenti di contratto, continui cambiamenti di datore di lavoro, continui capacità soprattutto di fare delle scelte predeterminate e in tempi rapidi, cioè schiacciare su tre bottoni, saper schiacciare il bottone giusto, andare avanti a quiz, questionari con scelta fissa, ecco, quello lì è il lavoratore che va bene, perché è un lavoratore che si adatta, non rompe il ritmo, non rompe le scatole, si adatta, se non gli va bene va a lavorare in un'altra parte, perché comunque tanto non ci sono, non perde niente, diciamo, non avendo niente non perde niente, dall'altra parte non perde neanche gli scatti che aveva, di, tra l'altro nell'esempio che abbiamo fatto, neanche gli scatti di Scala Mobile, per dire, no? Nel senso, soprattutto era una macchina, è quella di adesso, una macchina che sempre più ti macina, soprattutto se tu non hai una cultura medio-bassa, ecco, se tu ti sei fatto una cultura più che medio-bassa e non hai capacità di adattamento, ovvero adattarti nel senso che ti va bene tutto, dice Bonanno, i più deboli hanno maggiore possibilità di vivere con questo ciclo produttivo, diciamo, del capitalismo di adesso. Quelli, diciamo, i più forti, virgolette, più, insomma, più anche rimanendo al discorso, discorso, sì, di conflitto, capacità di conflitto, si rompono, ecco, con questo genere di parametri con cui hanno a che fare, ecco, questo qua era il, penso che sia questo, insomma, lo scenario che c'era su questa conferenza, e da cui faremo adesso un passaggio all'ultima parte delle cose di cui volevo parlare stasera. Stiamo ascoltando adesso questa band finlandese che sonoricamente ci riporta agli anni 80, ma in realtà questo album, cioè questo album è uscito nelle scorse settimane. Loro sono i Kaupasaarto dalla Finlandia, e non vi leggerò mai il titolo di questo disco perché non saprei da che parte iniziare. Comunque sì, voglio solamente chiarire una cosa, non è che perché voglio censurare il titolo di questo disco, ma è perché per me il finnico è abbastanza impronunciabile. Comunque il disco si chiama Ristinnaulittu Kaupasaarto, che ovviamente poi ve lo posso anche tradurre se volete, ma comunque la band si chiama Kaupasaarto 2025. Ah, ok, allora andiamo noi, 21:10 effettivamente, si è fatta una certa ora, andiamo sì, di questa sera di giovedì 31 luglio, come sempre in diretta per Zardins Magnetics, per chi magari fosse collegato solo adesso alla radio, FM. Involontariamente. Allora, avevamo parlato fino adesso del come si può dire, dei cambi delle svolte, diciamo, epocali che hanno coinvolto non solo appunto i cicli produttivi, i contesti di lavoro, i contesti di vita, ma direttamente come è costituito, si può dire, l'individuo, appunto, come questo individuo è diventato un campo di battaglia dei vari capitalisti che si buttano dove vedono che si può guadagnare, lì si buttano. Non è che loro abbiano, come diceva giustamente in quella conferenza abbiamo letto Bonanno, giustamente loro non è che si rivolgono, vanno a chiedere soluzioni agli economisti, ma non è che esista un movimento capitalista cosciente dei suoi compiti. Loro vanno dove c'è il guadagno, lì si buttano, lo realizzano e se ne fottono di delle conseguenze che lasciano, ecco. Molto caotici, molto fuori controllo. Per proseguire, che non cambia tanto, secondo me, comunque, non cambia tanto questa ricerca che ha fatto, che è stata fatta da una studiosa che si chiama Anna Mary Garrapa, italiana, sì, ne scrive in italiano, ma è stata sul campo, appunto, ha fatto questa ricerca sul campo negli anni scorso, diciamo 7-8 anni, dove e su cosa. Allora, lei è partita naturalmente dai suoi studi, che aveva già realizzato delle ricerche sui raccoglitori stagionali qui di casa nostra, Rosarno, e insomma altre zone sempre in Spagna, Valencia. Questo è quello che le interessava. In questa lunga ricerca, si è spostata appunto oltreoceano, e quella particolare zona degli Stati Uniti e del Messico, ma si parte dagli Stati Uniti, in special modo dalla California. Quello che è successo in California a partire dalla fine degli anni 70, che appunto rimandiamo a quello che abbiamo detto prima, no? La svolta che c'è stata a livello globale, che ha, appunto, partiamo da qua allora, che ha comportato il fatto, cioè no, prima vi dico un'altra cosa, c'è questa frontiera appunto tra le due Californie, di qua e di là, oggi come oggi, però c'è lo stesso modello produttivo che riguarda appunto in particolare una cosa particolare, il lavoro agricolo, la raccolta, inoltre, oltre che tutte le altre lavorazioni, dei frutti rossi. Però questa particolare specifica situazione si influisce anche su tutto il flusso di lavoratori stagionali che arrivano dall'altra parte del confine messicano, cioè con l'Honduras, nel sud, diciamo, nel Centro America, nel sud del Messico. Ecco. Stavo dicendo, ecco, cosa è successo a fine degli anni 70? Praticamente si è passati da una ristrutturazione, ovvero hanno visto che continuando con produzione casearia, allevamento cerealicole, quello che loro chiamano il valore aggiunto, ovvero il valore della produzione, rimaneva basso, cioè loro non riuscivano a estrarre quello che gli serviva da questo tipo di merci. Allora sono passati a produzione di frutta fresca, noci simili, ortaggi, e in particolare, vi dicevo prima, questi frutti rossi, che sono le fragole e annessi e connessi, insomma il resto, perché appunto lì, chiaramente, la California si sa che è una zona particolarmente rinomata per questo genere di, per tutti i generi, per il clima, eccetera, insomma. Allora, questo genere di cultura prevede un'elevata intensità di capitale da investire, perché c'è l'irrigazione, c'è la ricerca nei laboratori di particolari varietà resistenti, e in più anche una bella dose di intensità di manodopera, perché appunto vanno seguite queste piante molto inevitabilmente da lavoro manuale. Ecco, questo lavoro manuale scarseggia, quindi loro sono andati chiaramente a cercare di tappare sti buchi che scarseggiano in California con gli immigrati presenti in Messico, che sono comunque sempre di più, diciamo, da inizio anni 80 ci sono anche non solo più appunto lavoratori messicani tali e quali, diciamo, delle zone urbane, ma proprio popolazione indigena mixteca, ecco, delle zone anche interne. Allora, non esiste nessun sistema di reclutamento, accordo, ecco, tra le due stati, tra i due apparati, diciamo, di lavoro, ecco, per cui quando si lavora da una parte di là ti riconoscono tutto quello che hai fatto, ecco, è solo una iniziativa unilaterale degli Stati Uniti, e danno questo visto temporaneo che non ha praticamente una copertura, praticamente zero, insomma non ti danno né non risulta che ti danno né un minimo di copertura sugli infortuni, ecco, tutto il resto contratto, non parliamo appunto a livello normativo prima, ma anche a livello contrattuale, praticamente zero, nessun riconoscimento, è solo un sistema per reclutare e regolarizzare la gente che chiamano a raccogliere queste fragole, no? Allora, non solo, è previsto appunto, siamo arrivati ai giorni nostri, che ci sono queste praticamente società commerciali, grosse, enormi società commerciali, che fanno girare tutto il meccanismo. Queste società praticamente danno, non è che assorbono i piccoli produttori, però li rendono legati, i produttori hanno l'esclusiva, cioè sono obbligati a vendere esclusivamente alla società commerciale. Allora, i produttori che si accordano rimangono giuridicamente autonomi, punto. Quindi tutto quello che succede sono responsabili se succede casino o se va male l'annata, avanti, devono arrangiarsi, andare a cercare assicurazioni, eccetera. Ma hanno un accordo esclusivo, cioè devono passare tutta la produzione solo a quella società. Allora, come ho detto, il rischio di produzione è in capo al produttore, però l'organizzazione del lavoro, quindi il controllo e il reclutamento, il controllo dei tempi, la valutazione, diciamo, la qualità del lavoro, eccetera, è sempre controllata dalla società commerciale. Le varietà culturali sono fissate dalla società commerciale e alla fine della stagione devono praticamente distruggerle, ecco, non possono arrangiarsi. Le tempistiche di tutte le fasi della produzione e anche del raccolto sono fissate dalla società commerciale, perché deve aggiustarsi in base sia alle differenze di clima, sia come va la stagione, sia alle richieste della grande distribuzione, no? Perché appunto queste società commerciali sono ingranate praticamente con la grande distribuzione organizzata, con i vari Walmart, eccetera, centri commerciali, qua si chiama in un altro modo, ma è sempre la stessa cosa. Infine, i margini di guadagno, cioè il prezzo finale, non lo fissa il produttore, deve arrangiarsi, ma lo fissa sempre la società commerciale, quindi i margini anche per questi produttori sono praticamente di sussistenza, ecco. Allora, la raccolta, una veloce descrizione del sistema californiano, poi perché voglio dirvi appunto cosa è successo di questo modello, così il succo del libro, che comunque per me è un libro interessante, una ricerca, sì, che a me è sembrata interessante, ecco. Mettiamo un brano però prima, se posso, perché... Do it! Stiamo parlando di questo lavoro di Anna Mary Garrappa, Frontiera del lavoro, esternalizzare la frontiera reclutando lavoro agricolo tra Stati Uniti, Messico e Centro America del 2024. E eravamo arrivati appunto a descrivere questo impianto, diciamo, produttivo che hanno concepito i padroni, no, del settore, diciamo, agroindustriale della California, che poi appunto rifornisce oltre che gli Stati Uniti anche di là dell'oceano, naturalmente, sapete, insomma, si trova anche. Se cercate ad esempio un pacchetto di noci, voglio vedere, insomma, se riuscite a trovare delle noci diverse da quelle californiane. Ci mancava da dire, appunto, questi grandi società, queste grandi società, aziende commerciali realizzano economie di scala. Ci mancava la parte appunto del lavoratore, il lavoratore che in California, come ho detto prima, se è regolare, appunto, se lo regolarizzano, sigla questo accordo, diciamo H2A si chiama, e per appunto gli stagionali e braccianti del settore agricolo, gli ha diritto a un visto temporaneo, dove lui appunto andrà a svolgere questa raccolta in cicli rapidi e frequenti, si confeziona direttamente in campo con un macchinario, cioè una specie di nastro trasportatore che si sposta sui filari, e un'operaia che controlla, valuta oltre che che sia presentabile, le fragole siano presentabili, anche che ci sia la quantità giusta, e se tu sbagli una delle due cose ti restituisce la cassetta e devi restare indietro. I cicli sono rapidi e frequenti, i confezionamenti in campo, dicevo, giornate che non finiscono mai quando c'è evidentemente la raccolta. Straordinari, si tende a non riconoscerli, scarsa copertura sugli infortuni, vicinanza, prossimità alle nocività, quindi ai trattamenti che vengono fatti, e non ultimo, insomma, obbligo di lavorare anche sotto la pioggia per questi braccianti. Questo qua è il modello californiano. È successo appunto che spostandosi oltre confine, andiamo nella valle di San Quintin, la Bassa California, intorno agli anni 90, a livello legislativo in Messico, ecco, prima di tutto, è andato avanti anche là il neoliberismo. E in particolare c'era addirittura messo nella Costituzione in Messico la possibilità delle proprietà comunitarie. Nel 91-92 hanno eliminato questo, cioè hanno previsto la possibilità di convertire in proprietà privata le proprietà comunitarie, no? Il famoso enclosure. In Europa, chiaramente i popoli nativi hanno continuato, cioè chiaramente il contesto è diverso, e hanno sempre continuato a utilizzarle, fino appunto però agli anni 90, 92 in particolare, l'hanno messo in Costituzione, e piano piano li hanno cacciati, ecco, da queste proprietà comuni. Ecco, piano piano hanno introdotto, le aziende hanno introdotto il sistema di lavoro per aumentare la resa, quindi con quei metodi di irrigazione, eccetera, insomma, prelevare l'acqua e le serre e avanti, quindi anche i costi sono aumentati, e anche sono riusciti a, questa anche cosa è importante, a dare una produzione di frutti rossi anche in periodo controstagionale, cioè quando c'è la bassa stagione loro riuscivano a portare, a fornire i frutti rossi. E, no, piccolo, solo piccolo inciso su questa questione che... No, vabbè, perché quando dicevo prima delle proprietà comunitarie, dove appunto per la sussistenza, no? Quindi nei villaggi liberamente si poteva, uno poteva farsi l'orto, mettersi le cipolle, i pomodori, piano piano questi qua li hanno cacciati, no? Per mettere queste fragole rosse, frutti rossi. Se, cioè, questo l'ho preso da, l'ho ascoltato da un'altra, da nostre, insomma, un'altra trasmissione radiofonica di una radio che è Radio Wombat. E, se voi pensate, anche la patata che abbiamo è una varietà, diciamo due o tre varietà, ecco, si trovano in commercio, ecco, la scelta. Le patate vengono dal Centro America, Sud America, e le popolazioni precolombiane cosiddette, gli Incas in particolare, conoscevano e domesticato e selezionato 3000 varietà di patata, non 2-3, 3000. Perché? Perché era ribaltato il paradigma, cioè loro non è che adattavano il territorio alla varietà, loro andavano a cercare quella varietà che in quel particolare microclima e esposizione eccetera poteva adattarsi. E questo lo sappiamo perché loro se avevano degli appezzamenti, due o tre appezzamenti chiaramente orientati in maniera diversa, in mezzo lasciavano evidentemente la vegetazione spontanea, dentro questa vegetazione spontanea c'erano anche delle patate non domesticate, cioè spontanee anche loro le lasciavano lì e le monitoravano mentre facevano i loro orticelli di patata con varietà che erano 3000, ripeto, andavano a controllare anche se veniva fuori qualcosa nel boschetto. Se era qualcosa di interessante lo ibridavano con la varietà che avevano selezionato e vedevano cosa veniva fuori, e se trovavano appunto qualcosa di interessante lo portavano nell'appezzamento e diventava quella lì la nuova varietà, cioè lavoravano in questa maniera, non andando a estendere cicli produttivi in altri posti, cioè schiacciando, no? quello che trovavano, non schiacciavano quello che trovavano e lasciavano dietro il deserto, ecco. E, andiamo avanti su questo discorso del lavoro agricolo. Praticamente a un certo punto in questa San Quintino ci sono due flussi, perché c'è una parte di persone, di lavoratori che si spostano perché sono richiesti in California, no? Di là, negli Stati Uniti. Queste falle che loro generano devono essere tappate con altri lavoratori che arrivano dal sud del Messico, da posti sempre più lontani, anche perché questi che sono i reclutatori vanno a cercare possibilmente gente tranquilla, ecco. Siccome, cioè, ci sono già stati, lei parte l'autrice parte dal 2015, c'è stato un grosso movimento di proteste, anche perché l'intento del libro era cercare dei paralleli, no? Cercare i paralleli, dire appunto le differenze tra l'Europa, appunto tra i punti caldi che sono la rotta balcanica e il Mediterraneo e il discorso negli Stati Uniti, nel Nord America, ecco. Questi reclutatori cercano di andare anche in posti interni, appunto, dove nessuno è stato coinvolto in queste mobilitazioni che vi dicevo, e quindi è il lavoratore mansueto che non protesta, tace e sì, fa quello che deve fare perché è in situazione che non ha scelta, ecco. qual è appunto la svolta? Che a un certo punto, tra il 18 e il 19, c'è stato anche un cambio di governo, diciamo da destra a tutto fra virgolette a sinistra, no? Ma questo non ha cambiato il fatto che il Messico ha cercato di reprimere quello che non ho detto, che sono queste forme di protesta, di contestazione allo sfruttamento, avvenivano in forma collettiva, cioè i lavoratori indigeni delle zone, insomma, interne o delle zone o addirittura dall'Honduras o da altri paesi, diciamo, ancora più lontani, che venivano a cercare lavoro in Messico, non lo facevano in maniera invisibile, cioè facendo alla spicciolata, partendo, scappando, come purtroppo, insomma, avviene anche sta avvenendo qui da, appunto, sempre, come do per scontato, insomma, quel discorso della rotta balcanica. Questi lavoratori qua si erano dati delle forme di lotta, per cui si muovono in carovana, e dicevo, della svolta dal governo di destra a un governo più, diciamo, populista, e però che hanno messo in opera sempre delle forme per limitare la libertà di movimento, condizionare il fatto che venivano regolarizzati, cioè la regolarizzazione di queste persone era condizionata al fatto che si fermassero in Messico e stessero le condizioni di questi, chiamiamoli, programmi, ecco, come quali chiamano adesso, come si chiamavano tutti i piani che abbiamo qua per gli immigrati, per i richiedenti asilo, fino a un certo, insomma, si parla sempre tra gli anni 10 e gli anni 20, ecco, io non mi riferisco agli attuali piani, ma quelli che hanno, quando è cominciata questa storia, anche là era una forma per praticamente polverizzare le forme di protesta e metterli lì, tenerli buoni, fargli fare lavori di manutenzione, non dargli neanche le busta paga, dargli queste forme di pagamento ibrido, lasciarli lì a bollire, aspettavano i documenti e avanti. Insomma, dopo la questione del Covid, la roba si è ancora più, diciamo, ha avuto ancora una torsione più pesante, e così è finita, insomma, i confini di questa ricerca finiscono, ecco, il 2021, ecco, così, e documentano quella che è stata una repressione da parte delle autorità di queste forme di resistenza, ma anche quello che è rimasto, i metodi di lotta, insomma, le forme di vita in comune che sono state sperimentate, il mutuo aiuto che si è diciamo sviluppato con queste lotte, nonostante appunto anche non tutti pochi obiettivi siano stati raggiunti, ma comunque è una cosa, evidentemente non è chiusa così, non è finita. Qui non si parla delle ultime, di quando è arrivato Trump, diciamo, della questione degli scontri che ci sono stati le ultime settimane, ecco, gli ultimi mesi, però era per dire, insomma, che non finisce così, ecco, non finisce sicuramente così, e il lavoro di approvvigionamento, la catena di approvvigionamento, del cibo, della catena alimentare, ecco, diciamo, è vincolata al lavoro dei braccianti, ma del lavoro agricolo, non è una cosa che si può saltare, e quindi la cosa ecco, ha ancora dei margini, diciamo, di sviluppo, di che staremo sicuramente a vedere, penso. Ecco, con questa io direi che ci salutiamo e passo la linea all'altra parte del vetro. Bene, su questo brano che stiamo ascoltando, che comunque abbiamo anche ascoltato prima, in sottofondo, loro sono gli olandesi Vitamin X, dal loro album datato 2002 che si chiama Down the Brain, e sono di Amsterdam. Quindi siamo proprio, abbiamo sforato brutalmente oggi. Salutiamo tutti, l'appuntamento è per il prossimo giovedì. Ricordo, siamo in diretta dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine anche oggi, 31 luglio 2025. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.